giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Quarta dose al via anche per gli ultra sessantenni. È possibile prenotare. La platea degli interessati comprende 400.000 persone, ma vanno esclusi quanti hanno contratto il Covid negli ultimi 120 giorni. Il Servizio Sanitario Regionale si organizza, ma darà una risposta calibrata alle richieste di vaccinazioni. Spento a tarda sera il vasto incendio che dal primo pomeriggio di ieri era divampato in Val Rosandra su un fianco del Monte San Michele. Decine di uomini impegnati a terra, fra vigili del fuoco, guardia forestale e protezione civile, in volo anche due elicotteri. Un fondo di 24 milioni alimenterà la misura regionale Dote Famiglia per attività culturali, educative e ricreative per i minori. Sarà erogato un buono di 500 euro per ciascun figlio per le attività extrascolastiche, la misura di sostegno riservata ai nuclei familiari con ISEE sotto i 30.000 euro. L'ERSA, l'ente regionale per lo sviluppo delle tecniche agricole, le presenta oggi a Pozzuolo del Friuli un nuovo sistema di irrigazione delle colture capace di garantire un risparmio idrico impiegando moderne tecnologie sulla base di quanto già sperimentato in Emilia-Romagna. Ancora una giornata di ricerca in Val d'Aosta del triestino Raffaele Rinaldi. Stavolta è la famiglia ad averla organizzata, coinvolgendo una quarantina di volontari, arrivati anche da Trieste e da Milano. La perlustrazione lungo i sentieri a monte della località di Lillazze è cominciata all'alba. Aperte le iscrizioni all'Università di Udine, in mattinata sarà lo stesso rettore Pinton a spiegare le novità per le matricole. Poi via una 3 giorni di porte aperte per incontrare tutor e docenti e conoscere più da vicino i corsi di laurea e gli sbocchi professionali. Gli spettacoli Jethro Tull, la storica band britannica nata alla fine degli anni 60, coinvolgerà il pubblico al Castello di Udine, mentre per il jazz l'italo-americano Aldi Meola sarà al Palamostre. Per il calcio, debutto dell'Udinese di Mister Sottil, oggi con un amichevole contro la squadra di Lienz nel Tirolo austriaco, dove la compagine friulana è in ritiro. Calciomercato, il Pordenone ha ingaggiato Arlind Aieti, la triestina Diego Galliani, entrambi difensori. È mercoledì 13 luglio 2022, sono le 7:20 minuti e 40 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni con voi stamattina Lorenzo Gerlinzoni e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è il tempo, il cielo è sereno sulla regione ed ecco le temperature registrate poco fa. A Trieste 21 gradi e mezzo, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 24 gradi. A Pordenone 20 gradi, a Gorizia 17 e mezzo, a Udine 19 e mezzo. Tolmezzo 17, Forni di sopra 11 gradi e mezzo. Tarvisio 9,5, Piancavallo 12 gradi, Sappada 6,5, sul Monte Zoncolan 12, sul Monte Lussari 11,5. A Lignano 21 gradi e mezzo, a Grado 19 e mezzo e la temperatura del mare è di 23 gradi e mezzo. Vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Su tutta la regione cielo in genere sereno, soffierà brezza che potrà essere anche sostenuta sulla costa, farà più caldo in alta quota con zero termico oltre i 4.000 metri. Prenotazioni già aperte e prime iniezioni della quarta dose dai prossimi giorni. Riparte la campagna vaccinale, sono 400.000 gli interessati, vale a dire ultra sessantenni e soggetti con fragilità dai 12 anni in su. La riapertura degli hub sarà subordinata all'andamento delle adesioni. Appena si libera un posto vado, non ho problemi, l'ho sempre fatti e continuo a farli. L'unica maniera per salvarci. Sulla quarta dose sono molto perplesso, ci devo ragionare, non sono convinto. A me scade la terza dose il 1° settembre, quindi al 2 io vado. Certamente questo continuo sollecitare crea un po' di confusione nelle persone. Quanti over 60 e soggetti fragili sopra i 12 anni si vaccineranno? Questa la grande incognita per capire se basteranno una decina di centri vaccinali sul territorio o andranno attivate nuove strutture. Anche in Friuli Venezia Giulia ci si può già prenotare per il secondo booster o seconda dose di richiamo, consigliata a partire dai 120 giorni dopo la terza dose o l'infezione. Ma la somministrazione potrà avvenire verosimilmente da giovedì, ovvero il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento. 400.000 persone in totale gli eleggibili, tolti circa 50.000 perché recentemente positivi o vaccinati. Quali persone non dovrebbero pensarci su due volte e prenotarsi subito? Lo abbiamo chiesto al direttore del laboratorio di immunologia dell'Università di Udine, Carlo Pucillo. Sicuramente per i fragili è fondamentale che facciano questo, che non è una quarta dose ma è un secondo boost. Cioè i soggetti hanno già un'immunità forte, che è quella cellulomediata che uccide, cioè il virus e la cellula che lo contiene, ma sicuramente il boost permette di aumentare il titolo anticorpale che va contro il virus prima che esso entri nelle cellule. L'attesa di settembre sicuramente è per tutti quelli che sono stati infettati in questa lunga estate in cui c'è stato un picco di aumenti. Io sono sessantenne, ho fatto tutte e tre le dosi, non sono un soggetto estremamente fragile e quindi penso che aspetterò a settembre, ma sicuramente una persona che ha contatti con persone che sono fragili, che è sessantenne, che è fumatore, che ha comorbidità, allora è sicuramente importante che faccia il secondo boost. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Gli ultimi dati sull'andamento del contagio in regione parlano di un tasso di positività arrivato poco sotto il 26% su 11.750 fra tamponi e test effettuati. Sono risultati positive 3.037 persone. L'incidenza sui 7 giorni per 100.000 abitanti è pari a 1.046. Tre i decessi, tutti a Udine. In terapia intensiva sono ricoverate 6 persone, lo stesso numero rispetto al giorno precedente, mentre sono 201 i degenti negli altri reparti. I vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti ieri sera per un vasto incendio boschivo che si era sviluppato presso il confine fra Italia e Slovenia, a Bagnoli della Rosandra, sul Monte San Michele. Molto ampio il fronte del fuoco. Per domare le fiamme sono intervenuti una cinquantina di operatori, fra vigili del fuoco di Trieste, squadre dei distaccamenti di Opicina e Muggia e poi uomini della protezione civile, della guardia forestale e i carabinieri. Due gli elicotteri impiegati, uno dei pompieri, uno della protezione civile. La strada che collega Bagnoli della Rosandra a San Giuseppe della Chiusa è rimasta temporaneamente interrotta. Le fiamme sono arrivate nelle vicinanze di alcune case della zona, ma i soccorritori sono riusciti a fermare il rogo in tempo e nessun danno agli edifici è stato rilevato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in tarda serata attorno alle 23. Dote famiglia e il contributo regionale destinato ai nuclei con figli di età minore di 18 anni e ISEE sotto i 30.000 euro per poter fruire di prestazioni e servizi di carattere educativo, ludico e ricreativo. Il fondo a ciò destinato è di 24 milioni di euro. 500 euro per ciascun minore per le attività extrascolastiche e la dote famiglia messa a punto dalla giunta regionale per i nuclei con ISEE pari o inferiore a 30.000 euro residenti da 24 mesi in regione e detentori di carta famiglia. Una misura strutturale con dotazione di 24 milioni di euro che, sottolinea Fedriga, completa le azioni a supporto della famiglia varate dalla sua giunta dal 2018 in poi, a iniziare dal sostegno delle rette degli asili nido per le quali in questi anni le risorse sono triplicate arrivando a 25 milioni di euro. Con risultati importanti perché abbiamo avuto un aumento di circa il 70% sull'anno 22-23 per quanto riguarda l'accesso agli asili nido e quest'anno abbiamo avuto in questo primo trimestre un aumento del 9,7% dell'occupazione femminile rispetto al 2019, quindi addirittura pre-pandemia. Dote Famiglia integra i servizi della prima infanzia, le misure contenute nelle leggi regionali sul lavoro e sulla famiglia e, spiega l'assessore Rosolen, ha come obiettivo garantire a tutti i minori l'accesso ai percorsi integrativi alla scuola, quindi sport, educazione musicale, centri estivi, gite scolastiche e altre attività svolte sul territorio regionale. La domanda va presentata sul sito della Regione una volta all'anno per l'intera famiglia, quindi quando si stima di aver raggiunto o superato la quota spettante. 500 euro per un figlio, 1.000 per due e via sommando. Attraverso lo stesso portale si può richiedere anche la carta famiglia e a breve si potrà accedere al servizio attraverso la app regionale dedicata. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle illustreranno i dati relativi al reddito di cittadinanza in Friuli Venezia Giulia contenuti in una delibera della Giunta. Alle 13.30, o comunque al termine della seduta d'aula mattutina, nella sala gialla del Palazzo del Consiglio regionale a Trieste. E sempre oggi sarà presentata a Pozzuolo del Friuli dall'ERSA una nuova tecnologia che permette di razionalizzare e ottimizzare il consumo dell'acqua. L'obiettivo è salvare i raccolti nelle prossime emergenze. Irrigazione a goccia, sensori e macchinari sofisticati per ridurre lo spreco d'acqua. L'Emilia Romagna fa scuola e porta in Friuli Venezia Giulia una nuova tecnologia per far fronte all'emergenza idrica. Firmato attraverso il consorzio di bonifica della regione, un protocollo con l'ente dell'Emilia Romagna, soddisfatta la Coldiret. Matteo Zolin, presidente della Coldiret di Pordenone. È una tecnologia che va a razionare l'utilizzo dell'acqua e quindi attraverso l'irrigazione a goccia, la sub e micro irrigazione, a portare l'acqua più vicina possibile alla pianta, potendo utilizzare anche delle concimazioni, quindi fare anche la fertirrigazione, e assieme all'utilizzo di una tecnologia, delle nuove tecnologie 4.0, razionare l'acqua è sinonimo anche di irrigare quando c'è necessità, per cui attraverso dell'applicazione c'è la possibilità di irrigare quando serve. L'ERSA, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale, presenterà questa tecnologia a Pozzuolo del Friuli con una 2 giorni dedicata alle soluzioni più innovative per un'irrigazione efficiente. Obiettivo: ridurre lo spreco insostenibile di fronte all'emergenza idrica attuale. È un cambio di passo importante, un cambio di mentalità e soprattutto di utilizzo consapevole dell'acqua nell'attività agricola. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio regionale prosegue oggi l'esame delle proposte di riforma della normativa in materia di impianti di risalita, testi fermi a 41 anni fa. Cambiare le regole per la gestione degli impianti a fune nelle località montane della regione, regole vecchie ormai di 41 anni, e sostituire la commissione regionale competente con una conferenza di servizi locale, creando invece una autorità unica di sorveglianza su costruzione, esercizio e manutenzione. Sono gli obiettivi della legge che impegna il Consiglio regionale. Il testo distingue fra gli impianti completamente a servizio dello sport e del turismo da quelli che svolgono una funzione di vero trasporto pubblico locale e affida la gestione delle strutture a Promoturismo, con l'obiettivo di snellire le possibilità di intervento e incrementare il demanio sciabile. La nuova legge prevede anche una puntuale ricognizione sulle strutture esistenti per razionalizzare le nuove realizzazioni. Sul piano economico, il testo stanzia 4,65 milioni l'anno nei prossimi 2 anni per gli investimenti da realizzare. Il Consiglio si è anche occupato del rapporto sulla legislazione 2021, una sorta di riepilogo del lavoro di Assemblea e Commissioni. 25 le leggi approvate lo scorso anno, in larga maggioranza proposte dalla Giunta, con poco spazio alle modifiche sui testi avanzate dalle opposizioni. 503 le interrogazioni e interpellanze cui l'esecutivo ha dato risposta, con il limite, ha evidenziato la consigliera del PD Santoro, che spesso le risposte stesse non vengono fornite in forma scritta, complicando il lavoro dei consiglieri. All'ordine del giorno anche la relazione della Giunta sulle attività anti-mobbing. I 3 punti di ascolto accreditati a Gorizia, Udine e Pordenone hanno assistito lo scorso anno 348 utenti, in maggioranza donne ultra cinquantenni. Le problematiche segnalate vanno dalla dequalificazione professionale alle vere e proprie molestie e arrivano più che dai colleghi, dai superiori e dai datori di lavoro. In apertura di seduta, la convalida dell'elezione di Marco Pisani, che prende il posto tra i banchi dell'opposizione di Igor Gabrovets, e la designazione di Paolo Tommasin a componente dell'Osservatorio regionale antimafia. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Auspico che entro il prossimo autunno si chiudano le procedure per assumere nuovi forestali da integrare nell'attuale organico regionale. Lo ha detto ieri a Tarvisio l'assessore alle risorse forestali Stefano Zannier. Sappiamo bene come la situazione attuale sia in forte sofferenza, poiché con il numero di forestali in servizio a malapena si riesce a garantire l'ordinarietà, ha detto Zannier, ma per la fine dell'anno potremo avere a disposizione decine di nuovi agenti in organico con i quali ristabilire la piena operatività. Da ormai 50 giorni non si hanno più notizie di Rafael Rinaldi, il fisioterapista cinquantenne originario di Trieste, di cui si sono perse le tracce sui monti della Val d'Aosta, nella zona di Cogne. Era il 22 maggio quando era partito per un'escursione. È stato cercato per i 5 giorni successivi, poi le ricerche si sono fermate. Oggi, dalle prime luci dell'alba, sui sentieri sopra l'Illaz, si sta svolgendo una nuova ricerca, organizzata questa volta dalla famiglia. Vi partecipano una quarantina di volontari, giunti in zona da Trieste, da Milano e da Chamonix, la località francese dove ha sede la clinica presso la quale Rinaldi lavorava. Sono state ingaggiate 2 guide alpine e una squadra con cani specializzati nella ricerca di persone. Si sono aggregate anche persone del posto. Un elicottero sta provvedendo a portare tutti in quota e poi a perlustrare l'area. Domenica scorsa la Protezione Civile della Val d'Aosta aveva effettuato una ricognizione presso alcune cascate. La zona era stata perlustrata dall'alto e anche da personale calato dall'elicottero, ma purtroppo senza alcun esito. Al via da oggi le immatricolazioni all'Università di Udine. Tutte le novità saranno presentate questa mattina alle 11 dal rettore Pinton nel Salone d'Onore di Palazzo Antonini Maseri. E per accogliere i nuovi studenti l'Ateneo Friulano inaugura una 3 giorni di Open Day da oggi fino al 15 luglio per incontrare tutor e docenti e conoscere più da vicino i corsi di laurea e gli sbocchi professionali. Non mancheranno i tour delle sedi con visite alle aule, alle biblioteche che ai laboratori. Si parte da Udine con 2 incontri al Polo Universitario di Via delle Scienze questo pomeriggio alle 15 e domani alle 14.30. Sempre domani dalle 9.30 del mattino sarà visitabile anche il Polo di Santa Chiara a Gorizia e venerdì 15 luglio sempre dalle 9.30 sarà visitabile invece il Polo di Via Prasecco a Pordenone. Al Garden del Visionario di Udine, stasera alle 19, la sinologa e giornalista Giada Messetti presenta La Cina è già qui, una bussola per orientarsi nel labirinto di una civiltà millenaria, quella del gigante dell'Estremo Oriente. Un libro ponte per scongiurare lo scontro di civiltà che per molti ormai è alle porte, dice Messetti. Un'opera di connessione e tessitura, non più rimandabile, perché l'Occidente ha bisogno della Cina tanto quanto la Cina ha bisogno dell'Occidente. La scienza si concluderà oggi al Centro di Fisica Teorica il simposio scientifico dedicato ai 100 anni dell'Unione Internazionale di Fisica Pura e Applicata. Fra gli interventi di ieri, quelli degli ucraini, gli scienziati ucraini e russi sullo sfondo delle preoccupazioni per il conflitto in corso. All'apertura della conferenza di Trieste per i 100 anni della UPAP, Unione Internazionale di Fisica Pura e Applicata, la vicepresidente italiana Monica Pepe Altarelli ha ribadito la ferma condanna dell'aggressione russa all'Ucraina, ma al tempo stesso la convinzione dell'importanza di mantenere aperto il canale della cooperazione con tutti gli scienziati. Anatoly Zagorodny, presidente dell'Accademia Ucraina delle Scienze, nuovo membro dell'organizzazione collegato da Kiev, ha sottolineato il rischio di un'escalation nucleare. Opinione non condivisa dal russo Boris Sharkov, ex vice direttore dell'Istituto per la ricerca nucleare della città di Dubna, presente a Trieste. Non credo ci siano politici così pazzi da usare armi nucleari in questo momento, ma c'è il pericolo che vengano usate le cosiddette dirty bombs, esplosivi con materiale radioattivo. La nostra comunità di scienziati deve fare tutto il possibile per prevenire questi sviluppi negativi. Sono convinto che gli scienziati debbano rimanere fuori dalla politica e che la cooperazione scientifica sia un importante strumento diplomatico. Il simposio dello UPAP, che ha trasferito da poco gli uffici amministrativi a Trieste, si tiene all'ICT, il Centro Internazionale di Fisica Teorica, che nacque in piena guerra fredda, modello di cooperazione fra scienziati di tutto il mondo. Tra gli ospiti della 3 giorni di incontri ci sono ben 4 premi Nobel, uno solo in presenza, l'americano William Phillips. Gli interventi spaziano dal cambiamento climatico alla presenza femminile nella comunità scientifica. Monica Pepe Altarelli. Tutte le varie discipline della fisica sono rappresentate all'interno dell'Unione e l'Unione vuole favorire lo scambio tra queste varie comunità, tra i vari paesi, incoraggiare lo sviluppo della fisica nei vari paesi, specialmente nei paesi in via di sviluppo, lo studio della fisica, l'apprendimento della fisica, incoraggiare le ragazze nello studio della fisica, questo tipo di attività. Trieste, Ludovico Fontana, TGR, Friuli Venezia Giulia. E due eventi per mettere in relazione culturale Russia e Ucraina nella speranza che si arrivi presto a una pace nell'est Europa. Il primo a Gorizia, si tratta del concerto inaugurale del festival musicale Note in Città. A salire sul palco saranno le violiniste russe che erano state inizialmente escluse dal concorso internazionale Lipizer, Anastasia Pentina, Carolina Shukis e Lidia Kocharyan. Insieme a loro si esibiranno la soprano e violinista ucraina Veronica Foia, il chitarrista bulgaro David Djakov e il pianista Umberto Tristi. Stasera alle 21 nel giardino di Palazzo De Grazia. Il secondo appuntamento invece consiste nella proiezione di un capolavoro del cinema sovietico, Vesnoi Navesni a Primavera di Mikhail Kaufman, filmuto del 1929 con accompagnamento musicale dal vivo. La pellicola, di chiara ispirazione marxista, racconta il risveglio della steppa e delle città del l'Ucraina dal gelo invernale, paragonandolo al risveglio del popolo attraverso la rivoluzione. Il ricavato della serata sarà devoluto a progetti di solidarietà per l'Ucraina mediati dalla Croce Rossa, dalla Caritas e altri enti benefici. Questa sera alle 21.30 all'Arena Cimolai di Pordenone, poi ancora in replica giovedì 14 domani e venerdì 15 stessa ora all'Arena Loris Fortuna di Udine e al Parco di Via Dante a Gemona. Inizia oggi la serie di manifestazioni per ricordare i 78 anni dall'eccidio della Valle del But, che ricorda l'uccisione di decine di persone, fra anziani, giovani, donne e bambini, da parte dei nazifascisti nel luglio del 44. Questo pomeriggio il primo appuntamento, la proiezione del film Il viaggio di Fanny di Lola Dailon, pellicola che ha vinto il Giffoni Film Festival nel 2016, un viaggio emozionante, ispirato a una storia vera che parla di amicizia e libertà. All'auditorium dell'Istituto Comprensivo Linuzio Matiz di Paularo alle 17. Cambiamo argomento e andiamo a Grado adesso, dove l'estate sta andando bene ma ci si interroga sull'attuale stato di inutilizzo di ampi settori della retro spiaggia. Una prospettiva però sembra esserci. Nella palazzina Medici, adiacente al lungomare di Grado, un tempo si effettuavano le visite propedeutiche alle sabbiature. La struttura è integra ma sottoutilizzata, e ancor meno utilizzato e praticamente vuoto è lo stabilimento delle sabbiature, che comprendeva aree uomini, donne, prima e seconda classe. In totale sono 17.300 metri quadri. Anche il terreno destinato al nuovo polo termale, 10.700 metri quadri, attende il suo destino, avvolto in uno slogan da trailer cinematografico. Grafico, coming soon. Infine, una terza area dalle ottime potenzialità ma ancora indefinita nel suo sviluppo è l'attuale deposito giardinieri con vivaio. L'incertezza sul futuro di questi tre ampi settori del retrospiaggia è legata al loro status giuridico. La proprietà del suolo infatti è del comune, ma Promoturismo FVG e quindi la società di gestione GIT hanno un diritto di superficie fino al 2025. Dario Danese, assessore all'urbanistica, lavori pubblici e patrimonio del comune di Grado. Abbiamo un cronoprogramma che ci porta a ritenere che alla fine di quest'anno sia il progetto del nuovo polo termale sia il progetto del parcheggio saranno ormai approntati. I tempi di conclusione in 2 anni circa per quanto riguarda il parcheggio del comune e in 3 anni circa, forse qualche mese in più, per quanto riguarda il polo termale. È ovvio che le aree che in questo momento sono sottoutilizzate lo potranno essere maggiormente non appena questi 2 interventi saranno realizzati. Roberto Marin, presidente di Grado Impianti Turistici, che gestisce la spiaggia principale dell'isola. Sono delle aree strategiche per la società, da troppi anni abbandonate. Nel 2001 avevamo risolto il problema già come amministrazione comunale, facendo una importante transazione con la regione Friuli Venezia Giulia. Oggi più che mai è improcrastinabile che amministrazione comunale e Promoturismo trovino l'accordo sul diritto di superficie. Abbiamo dei problemi di balneazione, sappiamo questo effetto di lagunarismo con la migrazione del banco della mula di Muggia, fra 15-20 anni potremo avere delle criticità molto importanti. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. il farmacologo Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano, è questa sera nel Pordenonese per la presentazione del suo ultimo libro, Brevettare la salute, una medicina senza mercato. L'incontro è promosso dall'associazione In Buona Salute San Vito e si svolgerà alle 19 all'Auditorium Concordia di Pordenone. Questa è Shoshana Sleeping e loro sono i Jethro Tull, una vera leggenda della musica internazionale, la band britannica del prog rock con oltre 50 anni di attività alle spalle e 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, porta a Udine per Folkest l'ultimo lavoro, l'album The Zealot Gene, uscito lo scorso gennaio a ben 19 anni dall'ultima pubblicazione. Un disco che è stato accolto dalla stampa specializzata con grande favore, definito dignitoso, elegante, profondamente riflessivo, ispirato a riflessioni bibliche. La band di Ian Anderson, che per la prima volta si esibì con il nome di Jethro Tull nel 1968, arriva così nel capoluogo friulano per una serata all'insegna della grande musica, serata durante la quale saranno proposti anche alcuni grandi successi storici del gruppo. Il concerto si svolge al Castello di Udine e avrà inizio alle 21:15. Freely taken, hardly won. A minute holds back hours. Ultima giornata di Pordenone Pensa in giallo. A chiudere la rassegna sarà il conduttore di Quarto Grado e giornalista Gianluigi Nuzzi alle 20:45 in piazza San Marco. Nuzzi, partendo dal suo ultimo libro I Predatori tra noi, soldi, droga, stupri, la deriva barbarica degli italiani, parlerà di alcuni recenti fatti di cronaca dove alcuni predatori sessuali celati sotto una rispettabile sembianza in giacca e cravatta perpetua la tragedia della violenza dell'uomo sulla donna. Alle 20:45 nell'ex convento di San Francesco. Serata speciale nel capoluogo friulano per Udine Jazz. Sul palco c'è l'italo-americano Al Di Meola, uno dei più apprezzati chitarristi viventi, pioniere della fusione tra world music, rock e jazz, con l'omaggio personalissimo e intimo all'infinito mondo dei Beatles. Il suo ultimo album infatti si intitola Across the Universe e raccoglie originalissime cover di alcuni dei brani più amati dei Fab Four. In sottofondo stiamo ascoltando la prima traccia dell'album, Here Comes the Sun, l'avrete sicuramente riconosciuta, reinterpretata appunto dalla chitarra di Al Di Meola. L'appuntamento è per questa sera al Palamostre alle ore 22, la serata sarà aperta dalla bassista e compositrice Rosa Brunello col suo ultimo lavoro Sounds Like Freedom col suo quartetto internazionale e sarà chiusa a partire dalla mezzanotte con il Mad Podcast Midnight Club alla Tana di Udine, trasmesso anche in diretta streaming. E adesso passiamo allo sport col calcio. Debutto oggi pomeriggio per l'Udinese di mister Andrea Sottil, alle 18 la prima uscita stagionale dei bianconeri per un amichevole al Dolomiten Stadion di Linz nel Tirolo austriaco, dove il team friulano si trova in ritiro contro il Rapid. Sottil dovrebbe partire con un 3-5-2, grandi assenti saranno Beto, che salterà tutte le amichevoli e forse anche la partita di Coppa Italia del 5 agosto, il difensore esterno Buta, operato a Roma per una frattura alla tibia, e Silvestri. Calciomercato, il Pordenone Calcio ha ingaggiato il difensore Arlen Dajeti, il calciatore classe 93 ha firmato un contratto di 2 anni con scadenza giugno 2024, nella scorsa stagione è stato leader difensivo del Padova, secondo in campionato e finalista playoff. Dajeti, albanese con cittadinanza svizzera, è nato a Basilea, vanta presenze in tutte le massime competizioni, col Basilea appunto club club nel quale è cresciuto, ha disputato anche la Champions League e l'Europa League con la nazionale albanese, 20 presenze complessive agli europei 2016. Il 6 gennaio 2016 con la maglia del Frosinone ha esordito in Serie A segnando contro il Sassuolo, successivamente ha militato nel Torino e nel Crotone sempre in A. E la Triestina ha ingaggiato il calciatore Diego Galliani, classe 2002. Galliani è un difensore impiegabile sia come centrale di destra che di sinistra. Ha vestito le maglie del Brienza Olgiatese e del Venezia Primavera, mentre nell'ultima stagione è stato titolare al Dertona in Serie D. Ed eccoci alla rassegna stampa di oggi, il titolo principale sulla prima del piccolo di Trieste, un dossier sul cantiere del tram di Opicina. È il tema con cui all'interno aprono le pagine della città. Si tratta di un fascicolo, anche fotografico, raccolto dal Partito Democratico e dal capogruppo in Consiglio Comunale Giovanni Barbo. I lavori alla Trenovia sono finiti davvero o no? Sotto un articolo che fa la cronistoria, tutto ebbe inizio il 16 agosto del 2016 con il frontale fra le vetture 404 e 405. Linea ferma da allora, rimasero feriti 6 passeggeri e 2 macchinisti. Nella pagina accanto le reazioni della maggioranza e del sindaco di piazza che replica: idem, pensino ai disastri come Stream, noi siamo impegnati per riattivare il servizio. Torniamo alla prima, alla foto centrale, una rielaborazione fotografica del progetto del parcheggio interrato dinanzi alla stazione marittima. Se ne parla diffusamente a pagina 21. 2 settimane per decidere il progetto Interparking, modificato per renderlo compatibile con le crociere, il confronto con autorità portuale e TTP, costi lievitati da 20 a quasi 30 milioni. In apertura sul Messaggero Veneto, la scuola, poche iscrizioni, a scuola tornano le pluriclassi, in Friuli Venezia Giulia ne sono state autorizzate 78 in 45 diversi istituti, soprattutto elementari e medie, e l'effetto del calo demografico, che sarà un problema sempre più pesante negli anni a venire, 3 milioni stanziati dalla Regione. E il calo demografico insieme alla formazione inadeguata in molti settori blocca il turnover nel mondo del lavoro, sale la preoccupazione di categorie e sindacati dopo l'allarme lanciato da Fondazione Nord-Est. La cronaca locale a centro pagina, in prima, la fotonotizia ci parla della eliminazione dei passaggi a livello a Udine, in arrivo i fondi del Ministero, poi lutto in Borgo Grazzano per la scomparsa di Umberto Sartori, storico oste del Marinaio, a Tolmezzo in corso Garibaldi 2 furgoni vanno a fuoco, intossicati 2 giovani, mentre a Cividale per motivi di sicurezza salta la riapertura dell'ipogeo celtico. Il Gazzettino del Friuli titola invece sulla campagna vaccinale, quarta dose per 400.000 friulani over 60 e fragili, mentre fa discutere la proposta di mantenere operativi al lavoro i lavoratori positivi al Covid ma asintomatici o pauci sintomatici, medici spaccati, possibilisti sindacati, per gli industriali la pratica va regolata. A Tarcento e Tricesimo invece polemica per la guardia medica fantasma, il problema è che mancano medici. E guardiamo l'edizione isontina del Piccolo, il titolo principale, aiuti per i figli, il contributo sale a 500 euro. Attivato il portale per richiedere la nuova dote della Regione. Gli importi massimi sono stati aumentati di 100 euro. La foto di centropagina raddoppia gli spazi la farmacia comunale di Sant'Anna a Gorizia. E nei richiami di spalla un'intervista a Chiara Gatta, prima vice sindaca di Gorizia, che commenta una nomina inaspettata. E con questo il giornale apre le sue pagine goriziane all'interno. Spazio poi al primo test estivo per Piazza Vittoria. Da domani partono le proiezioni del premio Amidei, che una volta si svolgevano nel parco Coronini. E accanto le 3 violiniste russe si esibiranno stasera al concerto per la pace. Sono le 3 musiciste escluse dal concorso Lipizer. Vediamo l'apertura delle pagine sul Monfalconese. Piazza della Repubblica, il salotto buono della città dei cantieri, da ieri comincia ad assumere il suo nuovo volto futuro con la posa delle prime lastre di pietra in giallo d'Istria che comporranno il cosiddetto biscotto, che sarà contornato da una speciale illuminazione posizione che potrà essere modificata tramite un telecomando. Il dorso di Pordenone del Messaggero Veneto, anche qui il titolo d'apertura è sul calo delle iscrizioni nelle scuole. In cronaca locale troviamo il via al progetto Parchi e alla ciclo pedonale a Fiume Veneto, mentre a San Vito al Tagliamento i cittadini segnalano che sono tanti gli incivili che lasciano le immondizie a bordo strada o nei campi, una malacreanza purtroppo in aumento. Dal comune promettono più controlli e sanzioni più severe, ma per la minoranza occorre fare di più. Il capocronaca di Pordenone ci regala un interessante reportage dal cosiddetto Bronx, dove lettere e poesie convivono con l'incuria e l'abbandono, una zona problematica per il capoluogo, scritte un po' ovunque, gli immobili vuoti, non vengono tenuti in ordine, il recupero dell'area slitta, tanti gli enti che stanno lasciando la zona. Dopo la prefettura è stata la sede di Idrogea a trasferirsi altrove e in prospettiva potrebbe farlo anche ASFO. Sul Gazzettino, sempre di Pordenone, si parla del calo degli ordini per le industrie della metalmeccanica, aumenta la cassa integrazione, aziende in ferie per 4 settimane, a Sacile arriva il servizio delle bici elettriche in affitto, mentre la cronaca locale riporta la polemica politica dopo la decisione del comune di Pordenone di applicare la direttiva europea Bolkestein sulla concorrenza alle bancarelle del mercato. Durissima l'opposizione del sindacato degli ambulanti, ma l'assessore comunale al commercio difende la scelta, è una legge che andava applicata, il mercato sarà più ordinato e pulito, ora le licenze valgono più di prima. Ancora qualche segnalazione, questo è il tempo in cui attendo la grazia, una biografia onirica e poetica di Pierpaolo Pasolini attraverso le sue sceneggiature, lo spettacolo che andrà in scena stasera alle 21 al Teatro San Giorgio di Udine per celebrare i 100 anni dalla nascita del poeta di Casarsa. A dirigere la rappresentazione il giovane regista Fabio Condemi. Dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia tornano le bagniniadi, le gare dedicate ai bagnini di salvataggio di Lignano, staffetta di voga, gare di nuoto, lancio del salvagente, le prove che attendono i bagnini di Lignano divisi in 4 squadre, Sabbia d'Oro, Colonie, Pineta e Riviera. L'appuntamento è per le 19:30 all'altezza del pontile a mare di Lignano Pineta. E noi ringraziamo per l'assistenza tecnica Walter Vidonis e Valentina Veneruso per la collaborazione in redazione. Alle 7:54 minuti e 30 secondi ci fermiamo. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione arrivano pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza col flash e poi con l'edizione delle 12:30. Grazie della cortese attenzione da Lorenzo Gerlinzoni e da Antonio Cajazza. L'augurio di una buona giornata. A risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.